C'era una figlia di Nuregnanti che la guardava a letto per morire. Tutti i miei amici la licenziarono, tutti i miei amici la licenziarono. E poi si parta San Cosme e San Damiano, e poi si parta San Cosme e San Damiano. C'è sta per me su cavolimo di trasere, c'è sta per me su cavolimo di trasere. E poi risponda la moglie di Luregnanti. E poi risponda la moglie di Luregnanti. Apriti le porti e fatti lanciare. Apriti le porti e fatti lanciare. E poi risponda lo capo di Limiadici. E poi risponda lo capo di Limiadici. Che se sono guaglioni di poco valore, che se sono guaglioni di poco valore, ancora non hanno l'uso studi a mano, ancora non hanno l'uso studi a mano, e si invicinano di la malata, e si invicinano di la malata. E la malata incomincia a parlare, e la malata incomincia a parlare. Tutti i miei amici sindi scapparono, sindi attaro di li barcona, sindi attaro di li barcona. Così rupio li braccia e culi pedi. Così rupiu li braccia e culi pedi. Ognuno si giangia lo suo dolore. Ognuno si giangia lo suo dolore. E poi risponda la moglie di Luregnanti. E poi risponda la moglie di Luregnanti. Piglia la borsa che li voglio pagare. Piglia la borsa che li voglio pagare. E poi risponda e Luregnanti, e poi risponda e Luregnanti. Puro lume a non ci voglio io dotare, puro lume a non ci voglio io dotare. Non ambulimo, non regnino dinari, non ambulimo, non regnino dinari. Fumma mandati di nostro Signore, fumma mandati di nostro Signore. Sanamo li malati senza denari, sanamo li malati senza denari. Viva San Cosime e San Damiano, viva San Cosime e San Damiano. Li grazie che ho vi cerca e mi lunate. Santi dottore, non mi abbandonate. Santi dottore, non mi abbandonate.